Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Tornano oggi a farci compagnia le storie dei controesodati, giovani che hanno colto l'occasione e la sfida di tornare in Italia in modo fattivo e propositivo, portando qui quanto appreso all'estero, per trasformare questa energia di rientro in progetti di impresa, anche a costo di sfidare un contesto non sempre facile. Un nuovo filone di racconto che già conoscete, lo abbiamo avviato ormai un anno e mezzo fa, ma che abbiamo deciso di ampliare a partire da quest'anno. Questo il piatto principale del menù odierno, che ci riporterà anche in Cina per il consueto appuntamento mensile con l'ideogramma. Oggi importanti informazioni sulle nuove leggi cinesi in materia di permessi di lavoro in Estremo Oriente. Un consiglio da amico, non perdete. Giovani talenti. La frase della settimana è copyright del premier Paolo Gentiloni, l'abbiamo ripescata, pensate, dal nostro archivio, disse Gentiloni da ministro degli esteri. Veniamo da anni, forse decenni, in cui il tema fondamentale è stato la fuga dei cervelli, adesso però bisogna anche accettare l'idea che siamo in un mondo diverso, in cui non esistono particolari barriere, ma una circolazione, uno scambio di conoscenze, di economie e di persone. Per Gentiloni non bisogna chiudersi, dobbiamo fare il contrario, essere aperti al mondo, essere presenti nel mondo. Questa è la visione indubbiamente positiva del momento storico, invitiamo però l'ex ministro e attuale premier a studiare a fondo anche i motivi per cui così tanti giovani lasciano la penisola. Purtroppo non è sempre e solamente desiderio di aprirsi al mondo. Un piccolo segnale di difficoltà tra i tanti lo riconosce l'Istat, nella penisola non ci sono mai stati così pochi studenti lavoratori, nell'arco di 10 anni il loro numero tra gli under 25 si è dimezzato, ora se ne contano appena 75.000, sicuramente sì, c'è anche lo zampino della crisi, dopo il 2008 la situazione è precipitata, il problema però rileva l'Istat è che non si intravede un'inversione di tendenza, sotto i 25 anni solo il 2% di chi studia lavora pure, a indicare che si tratta di due mondi separati. In drastica riduzione non solo gli occupati, ma anche chi ci prova a trovare un lavoro tra un esame e l'altro. E riusciranno in questa situazione i cosiddetti controesodati a dare una bella spinta dal basso al nostro paese? Beh, ero entrato in contatto con il mondo delle start-up romane. Questo mi aveva dato un bel po' di stimoli, di innovazione, di cose fresche. In realtà mi è sempre piaciuto poter avviare un'azienda mia e cercare di sfruttare la mia esperienza e competenze acquisite nel mio paese. Vito Perrone, 41 anni, è un imprenditore rientrato in Italia dall'estero. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio a notiziari. Boom dei cervelli in fuga negli ultimi 10 anni. Gli italiani che vivono oltre confine alla data del 1 gennaio 2016 erano 4,8 milioni rispetto al 1 gennaio 2006. Quando risultavano essere 3,1 milioni sono aumentati del 55%. Caratteristica distintiva è il titolo di studio, chi ha deciso di uscire dai confini nazionali in 9 casi su 10 è munito di laurea. Il profilo dell'italiano emigrato è stato ottenuto dall'incrocio dei dati Istat, Censis e AIRE elaborati dall'agenzia ADN Kronos. Analizzando i dati raccolti si arriva alla conclusione che l'incremento degli italiani emigrati non è dato solo dall'aumento delle persone che partono, ma anche dalla riduzione di coloro che tornano. Avverte l'Istat, il tasso di disoccupazione giovanile risale a dicembre superando quota 40%. L'occupazione della fascia giovanissimi è sostanzialmente ferma. Segnali positivi arrivano dai 25-34 anni con più 46.000 unità. Tra i 35-49 anni si registrano 149.000 occupati in meno. Tra gli over 50 si conferma invece il vero e proprio aumento dell'occupazione. Un osservatorio costante sui cervelli in fuga dalla provincia di Foggia, Capitanata chiama, questo nome del progetto messo a punto dai laboratori urbani Artefacendo, è partito online con una campagna di raccolta fondi. Il progetto rappresenta una call for mapping, l'obiettivo è conoscere la perdita di capitale umano nella provincia foggiana. La raccolta dati avverrà nei primi 9 mesi di quest'anno, sentiamo Gianni Augello tra i promotori del progetto. Nasce prima di tutto da un'esperienza personale. Quella che come ragazzi che hanno lasciato, come il sottoscritto, la Capitanata per andare a studiare, a lavorare altrove. È sì una mappa, ma mira ad essere anche qualcos'altro, cioè costruire una rete, no? Abbiamo lanciato una call, una chiamata per capire quanti siamo e dove siamo. Ad oggi abbiamo già ricevuto diverse iscrizioni, sono più di 60 i cervelli in fuga che hanno lasciato la provincia di Foggia, sia per andare all'estero, ma anche per andare verso il centro-nord Italia. L'idea è quella di creare un network di persone che possano contribuire in qualche modo con la propria esperienza all'estero, con la propria esperienza di lavoro, a creare qualcosa di stimolante per il territorio. Tutte le info su capitanatachiama.it. Buone notizie, secondo la settima edizione del report globale sull'imprenditorialità di Amway, l'Italia mantiene un'attitudine molto positiva nei confronti del lavoro autonomo, 72%, pur risultando inferiore alla media europea e mondiale. Risultati più incoraggianti se si guarda alle risposte degli under 35, l'attitudine dei giovani italiani nei confronti dell'imprenditorialità sale all'85%. Resta però il fatto che quasi 7 milioni di cittadini, proprio tra gli under 35, vivono ancora a casa coi genitori. Non si tratta solo di studenti o giovani disoccupati, spesso si continua a condividere lo stesso tetto con mamma e papà, anche se si ha già un lavoro. I dati Istat parlano chiaro, se non si è sposati si preferisce restare dove si è cresciuti, questo vale per il 62% dei 18-34 anni, percentuale che si assesta nel 2015 sui massimi, il picco nel mezzogiorno. D'accordo l'Eurispes, pagare l'affitto o il mutuo pesa, così per andare avanti c'è chi deve tornare sotto un unico tetto con mamma e papà. Molti hanno dovuto mettere in atto strategie anticrisi, quali tornare a casa dei genitori o in quella dei suoceri, così dice il rapporto Italia 2017. Infine, conferma Eurostat, 7 italiani su 10 under 35 vivono a casa coi genitori, 20 punti in più rispetto alla media europea. Siamo al top continentale, peggio di noi solo Slovacchia e Malta, all'opposto la Danimarca. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci fa restare in Italia, o meglio ci riporta nella penisola insieme a uno dei nostri controesodati. Nome: Vito. Cognome: Ferrone. Età: 41. Città di origine: Lecce. Studi: ingegneria informatica. Anno in cui sei tornato in Italia: nel 2011. Per andare dove? A Venere, parte del gruppo Expedia. Perché? Era un'ottima opportunità per fare quello che mi piaceva in un grande gruppo in Italia. Qual è il lavoro svolge attualmente? Imprenditore. Dove? Iocabè, Roma. Resterai? Beh, tra Trump e Brexit probabilmente sì. Follow me to a point of no return. I can make you feel sensation, take you to your destination, take you to the point of no return. And if you make the right decision, free your mind and see the vision, take you to the point of no return. No return, Century, tu sei tornato invece, c'è stato un ritorno, Vito, sono convinto che in Italia ci siano sia i talenti sia le opportunità per avviare una startup con ambizioni globali, basta avere ancora più passione per quello che si fa rispetto ai nostri vicini europei e americani, così Vito lancia a giovanitalenti@radio24.it il tuo messaggio di cambiamento, è ora di tornare e investire sul nostro paese? Beh, se uno si sofferma ad analizzare il caso Italia, soprattutto per chi è lontano, è difficile giungere alla conclusione immediata e razionale, ora è il momento giusto per tornare, non devo perdere questa opportunità, anzi, la prospettiva va rovesciata in realtà, si deve aver voglia di portare il cambiamento, non di beneficiare di un sistema migliore. Quando sono tornato ero veramente pessimista sul paese, non vedevo da Londra grandi opportunità, mi chiedevo ma che sto facendo? Il pessimismo in realtà stando qui poi pian piano si è trasformato in voglia di fare e di mettere a fattor comune la mia esperienza con i tanti talenti e opportunità che ho incontrato in Italia, ho rincontrato in Italia. Partiamo dall'inizio, ti laurei nel 2000 in ingegneria informatica, dopo che svolgi un dottorato al Politecnico di Milano, al termine del quale ti perviene un'opportunità dall'estero. Dove e per fare cosa? A Londra. Si trattava di un progetto di ricerca applicata, una collaborazione tra il Dipartimento di Software Engineering dell'University College London e il National Cancer Research Institute. Progetto interessantissimo, una creazione di piattaforma informatica che dovevamo progettare noi del team che era stato assunto. Che paese hai trovato oltre Manica? Incredibile, era la parte finale dell'era dell'Inghilterra di Blair, c'era un lavoro, pubs e drinks, un boom immobiliare, un sacco di giovani a tutto il mondo che avevano un lavoro, quindi soldi per poterli spendere e divertirsi, facile integrarsi e fare amicizia, facile un po' tutto veramente. Allora, al termine del progetto l'University College si apre per te il bivio, continuare a restare in mondo accademico, passare a quello privato e scegli l'ambito business. Ero un po' timoroso a lasciare la strada da ricerca ben pagata in Gran Bretagna, avevo in mente l'Italia, dove se un ricercatore vuole percorrere questa strada deve ripartire da meno di zero. Invece fu il contrario, ricordi. La carriera fu per te rapidissima, prima la consulenza, poi l'assunzione. Come funziona il mercato del lavoro britannico? Funziona, direi. Ci sono un sacco di agenzie di recruitment che lavorano a tutti i livelli, dai neolaureati o con persone con poca esperienza fino ai dirigenti. Quello che è importante è capire in realtà come collocarsi, cioè quali sono le competenze che richiede il mercato. Una volta capito e matchate le proprie competenze con quello che richiede il mercato, poi è facile iniziare, anche iniziando facendo il freelancer, che magari in Italia è visto come un ripiego, lì è visto come un ottimo modo per iniziare. Esatto, perché tu parti proprio da freelance per diverse grosse aziende, e la crisi finanziaria per te è addirittura una manna, perché nella startup di e-commerce dove finisci a lavorare arrivi a ricoprire anche un ruolo importante. Quale? Sì, nel 2008 ho iniziato a lavorare una startup lasciando una grossa azienda, era settembre 2008, nel 15 settembre Lehman Brothers, come tutti ci ricordiamo, e in sei mesi la startup, che aveva assunto un sacco di persone, ne ha licenziati la metà. Questo mi ha dato l'opportunità in realtà di prendere dei ruoli di persone che erano state licenziate, quindi crescere le mie responsabilità e le mie competenze, e pian piano ho sostituito anche il mio capo, che è il vice president del retail, e sono entrato a fare il management dell'azienda. Esatto, hai fatto carriera, poi però a fine 2010, anno della seconda svolta della tua vita, ti succede una cosa. A Londra stavo benissimo, avevo tanti amici, un sacco di eventi, mille possibilità di carriera. Avresti mai pensato in quell'anno di tornare e di lì a poco in Italia? Direi di no. La mia compagna ci pensava un po' di più, sicuramente, come possibilità futura. Io non vedevo in realtà una motivazione razionale nel farlo. E allora quale offerta ti riporta qui? Mi è stato offerto un ruolo molto interessante in un'azienda globale come Expedia e Vener, un team 10 volte maggiore di quello che avevo in Inghilterra, un'azienda in forte crescita, contesto internazionale. Credevo fosse un'ottima opportunità per effettivamente provare a tornare in Italia, pur mantenendo le radici in un'azienda globale con un'impronta sicuramente americana. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10:30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro notizie, gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10:30. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente e in alcuni casi anche successivamente rientrati. In questa puntata parliamo della vicenda di Vito Perrone, 41enne startupper con alle spalle una vasta esperienza di lavoro in Gran Bretagna. Una proposta di impiego allettante lo porta a tornare qualche anno fa in Italia. Lui accetta, pur tormentato dai dubbi. Nella penisola scopre un ambiente di lavoro stimolante, anche se in un contesto generale poco incoraggiante. Quando la sua azienda viene assorbita, lui rifiuta offerte di lavoro negli Stati Uniti e resta qui per sviluppare una sua azienda innovativa. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. Non scherzo quando dico rispondere all'offerta molto allettante fu la cosa più difficile che ho dovuto fare nella mia carriera professionale finora. Alla fine però accetti. Quale paese hai ritrovato? Quel paese fermo e impantanato che osservavi dalla Gran Bretagna? Beh sì, è stato veramente duro decidere di tornare. Nel 2011 Vienna era un po' un'isola felice nel contesto italiano. Lingua inglese, lingua ufficiale, la gestione all'americana. E in Vienna ho trovato un ambiente sorprendente, ma tutto intorno in realtà vedevo ben poco di quello che avevo lasciato in Inghilterra. Competenze assenti, non c'era grande scambio di informazioni. Era un mondo in realtà molto simile a quello che avevo lasciato. La cosa incredibile è che arrivi anche a far assumere e rimpatriare italiani all'estero con le agevolazioni dell'allora legge contro esodo. Quanti ne hai fatti tornare e quanto possono rivelarsi decisive nell'ottica di un rientro le agevolazioni fiscali? Io ho assunto tre persone nel mio team, qualcun altro è stato assunto comunque anche all'interno di Venere in altre organizzazioni, in altri team. team. E io ho scoperto la legge a posteriori, quindi per me non ha giocato un ruolo di attrazione, ma bensì di retention. Per chi doveva decidere se tornare, in realtà, delle persone che ho assunto, aiutava a bilanciare il potenziale svantaggio salariale che si venivano a trovare tornando in Italia. La motivazione non era mai questa, ma sicuramente diventava un buon incentivo capace di spostare l'ago della bilancia decisionale. Allora, a un certo punto cambia la strategia aziendale, viene assorbita da Expedia e tu prendi un'altra decisione, Vito, che a qualcuno all'ascolto potrà sembrare folle. Rifiuti due proposte di lavoro a San Francisco e Seattle, lasci tutto e diventi start-upper in Italia. Perché? Ero entrato in contatto con il mondo delle start-up romane, offrendo le mie competenze come tutor a chi operava nel mondo digitale. Questo mi aveva dato un bel po' di stimoli, di innovazione, di cose fresche. E in realtà mi è sempre piaciuto poter avviare un'azienda mia e cercare di sfruttare la mia esperienza e competenze acquisite nel mio paese. Questo è un po' stato lo stimolo che mi ha guidato e ho pensato fosse il momento giusto per farlo. Quale progetto lanci? Qual è l'idea alla base? Allora, l'azienda si chiama Yokabe, con la Y, e opera nel settore dell'e-commerce per la moda. Noi siamo un distributore online globale che permette ai brand della moda di raggiungere i clienti multicanale e multipiattaforma. Stiamo cercando un po' di fare quello che ha fatto Venere nel settore del turismo, rivoluzionarlo e permettere a tutti i brand, non solo i famosissimi, quelli più noti, ma tutte le migliaia di brand, ne abbiamo veramente tanti in Italia, di poter sfruttare al meglio il potenziale dell'e-commerce globale. E allora la nostra domanda di rito per voi, controesodati, possono i controesodati in qualche modo salvare, rilanciare l'Italia, Vito? Io direi di sì, altrimenti non ci starei provando. Direi innanzitutto che ci devi credere, ti devi rimettere in gioco in un sistema meno facile di quello che si lascia. Se è vero che c'è la palude qui in Italia, come molti definiscono, è pur vero che in questa palude ci sono tante persone e talenti che, se stimolati nel modo giusto, in effetti, con la giusta visione, possono dar molto di più di quello che uno può immaginare da lontano. Io l'ho visto di persona e ci credo. Ci raggiunge ora in linea Paolo Cellini, docente di marketing strategico e venture partner. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ripartiamo con te dal tema startup, che sta diventando il vero leitmotiv di questa puntata. Prima una premessa: quanti imprenditori innovativi come Vito stanno tornando in Italia per creare nuove aziende? Non moltissimi. Avete un numero? No, non si sa con esattezza, ma si misurano in decine o qualche centinaia al massimo. Ma insomma, siamo attrattivi come sistema paese? Per realizzare un ecosistema servono anche i soldi, lo sappiamo, sono in circolo? No, l'Italia investe in venture capital la metà della Spagna, un decimo dell'Inghilterra anche meno, 5 volte meno della Germania, 7 volte... meno della Francia e così via. Quindi insomma c'è parecchia strada da fare. A livello legislativo, dal 2011 in poi anche la politica si è svegliata, ha cominciato a regolamentare il settore startup. Lo ha fatto secondo te in modo sufficiente per consentire la costruzione di un vero e proprio ecosistema, oppure c'è ancora molta strada da fare a livello di regolamentazione? Si è fatto molto, è stata una piccola rivoluzione creando una serie di vantaggi agli investitori, creando anche una legislazione del lavoro favorevole, ma c'è ancora tantissimo da fare, tantissimo. E le ultime ricerche, su tutte quella recente del Ministero dello Sviluppo Economico, ci raccontano un paese di startup ancora piccole, con una media di 3 dipendenti. Anche il reddito operativo alla fine del 2016 segnava a rosso. Nonostante la creatività, insomma, siamo destinati a restare un paese caratterizzato dal nanismo dell'innovazione, o qualche speranza c'è? Le speranze ci sono, serve una politica molto più attiva che spinga in questa direzione. Il nanismo deriva dal fatto che molte di queste start-up cosiddette innovative, poi così innovative non sono, e lavorano soltanto sul mercato interno, quando oramai una start-up o è globale o non è. Grazie a Paolo Cellini e buon weekend. E torniamo invece con Vito Perrone. Domanda di rito: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Sicuramente di non pensarci troppo e farlo. Magari spostarsi con l'obiettivo di iniziare a lavorare come freelancer, come ho fatto io e come so che fanno tanti. Magari anche prendere lavori non perfetti rispetto a quello che si pensava di poter fare, e magari cercare di migliorare l'inglese se si sposta in un paese anglofono. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi facciamo ritorno in Cina per i nostri consigli mensili su come sfruttare al meglio le opportunità professionali in Estremo Oriente. Lo facciamo come sempre con l'Ideogramma, rubrica a cura di Manuela Verrecchia. che oggi ci aggiorna sulle importanti novità legislative in materia di permessi di lavoro. Chi potrà ambire a entrare in territorio cinese per cercare impiego? A partire dal 1 aprile 2017 entrerà in vigore la nuova normativa sui permessi di lavoro in Cina, che è già in fase di sperimentazione dall'ottobre scorso in alcune città pilota. Ancora una volta il concetto è chiaro: o si viene in Cina per apportare un effettivo contributo che manca nella forza lavoro cinese, o il permesso di lavoro sarà negato. In base alle nuove regole, gli stranieri che richiedono permesso di lavoro sono divisi in tre categorie. I talenti top, ad esempio i vincitori di premi internazionali riconosciuti, i talenti dell'innovazione, i talenti imprenditoriali, manager senior di società Fortune 500. Al numero due ci sono i talenti professionali, ad esempio chi ha conseguito la laurea o il master e ha fatto già 2 anni di esperienza, oppure gli insegnanti di lingua qualificati che abbiano insegnato almeno 2 anni, e ricordiamo si può oggi insegnare solo più la propria lingua madre, quindi niente più ragazzi italiani che vengono in Cina come un tempo a insegnare anche l'inglese. E al terzo e ultimo posto c'è la categoria dei lavoratori senza particolari qualifiche, come ad esempio gli stranieri venuti in Cina in base ad accordi governativi oppure collaboratori domestici al servizio dei talenti top. È previsto un sistema a punti. Tecnicamente non occorrono più 2 anni di lavoro e la laurea, basta superare i 60 punti, ma di fatto ottenere il permesso di lavoro in Cina diventa più difficile è sempre più selettivo. Ciò che dà maggior punteggio è la laurea in una delle 100 migliori università, secondo la classifica stilata dalla Università Zhao Tong di Shanghai. E purtroppo non ci sono università italiane, ci sono molte università americane, alcune università australiane, alcune università francesi, svizzere, ma non compare alcuna università italiana. Ad ogni categoria corrisponde un diverso trattamento. Non entro nei dettagli, ma vorrei solo evidenziare che i lavoratori non qualificati possono entrare in base ad un sistema di quote e che solo i talenti top non hanno vincoli di età per rimanere in Cina, mentre per i talenti professionali raggiunta una certa età si può perdere il requisito per la permanenza in Cina. Su internet si possono trovare molte informazioni al riguardo, per tutte segnalo il sito www.asecorpcina, scritto Asecorp China all'inglese.com.cn, andando alla sezione Knowledge Sharing, in cui c'è una dettagliata descrizione della procedura. Per maggiori informazioni potete consultare il blog Cina di Frontiera all'interno del portale China Files. Un motivo per restare o tornare. Una spinta importante all'imprenditorialità proviene dai giovani. La quota di under 35 tra i neoimprenditori è pari al 27% per gli imprenditori con dipendenti e raggiunge il 38% per i lavoratori in proprio. Lo rileva l'Istat, stimando in circa 316.000 il numero di quanti hanno deciso di avviare una nuova attività nel 2014. Rispetto agli imprenditori già presenti, i fondatori di nuove imprese sono mediamente più giovani e più istruiti. Inoltre è maggiore la presenza di stranieri alla guida di nuove aziende, sottolinea l'Istituto di Statistica. È donna oltre un quarto dei nuovi imprenditori con dipendenti. E per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Giovani Talenti Radio 24 o nella pagina Giovani Talenti. Siamo presenti anche su LinkedIn col gruppo La Fuga dei Talenti e potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. Siamo allo spazio Internective, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda, aspettiamo le vostre domande, idee, proposte, riflessioni e anche le vostre denunce. Per mettervi in contatto con noi è davvero semplice, basta scriverci a giovanitalenti@radio24.it. E vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare, cerchiamo storie di under 40 espatriati, under 40 controesodati nella penisola dopo diversi anni all'estero, under 40 stranieri a lavoro in Italia e anche giovani studenti delle scuole superiori o universitari attualmente oltre confine. Se vi riconoscete in una di queste categorie, beh allora Giovani Talenti è la vostra trasmissione. E per questo vi invitiamo a candidarvi scrivendoci a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.